luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Allora, c'è un incubo ricorrente, Alessandro e Beppe, che vi voglio raccontare in questa puntata di Off Topic. Intanto ciao. Cioè, sei a scuola in ciabatte, e, diciamo, è tutto un sogno, no? Quando no. Sei a scuola non sei in pigiama. No, neanche no, quello non mi capita spesso, mi capita di pensare che cado da un balcone e continuo a cadere, ma qua, non è questo di cui volevo parlarvi oggi. L'incubo ricorrente, che poi in realtà è un po' un sogno, un po' un incubo, è che mi sveglio e scopro che nel mondo non ci sono più idee, o meglio, non ci sono più idee nuove, cioè nessuno riesce a inventare più nulla. Riccardo, benvenuto al 2020, siamo, cos'è, 2 maggio, sì. Eccoti. Ricky, ma perché lo vivi come un incubo? Beh, perché secondo me, cioè, il motore di questo mondo, del mondo in cui viviamo, è che qualcuno si sveglia la mattina e ha quell'idea in più che fa progredire l'umanità. E invece ho il timore che a un certo punto ci sveglieremo tutti quanti in questo incubo collettivo e le idee sono finite, cioè riusciamo soltanto a rieditare idee già avvenute, già create. Ma io non la vivrei così in maniera negativa, anche un eventuale fine delle idee, perché di fatto poi le idee non è che ci sono e poi improvvisamente non ci sono più. Cioè, non lo so, io la vedo in maniera più democratica, nel senso che non ci sono mai delle intuizioni che rompono lo schema, è sempre un continuum che si modifica delicatamente finché non spunta fuori qualcosa di interessante. Io la vedo un po' così. Tu dici che non c'è niente di più inedito del già edito, sostanzialmente. Anche bravo, sì, bravo, lo dico spesso, non c'è niente di più inedito del già edito, e a volte si riprende una cosa di, non so, un secolo prima, la si ripropone per il pubblico di oggi e boom, hai avuto un'idea. Sì, comunque ragazzi, di fatto c'è che le idee non sono finite, quindi le idee sono tantissime, le idee sono tremendamente tante. Vi dirò di più, ieri sera in un momento di crisi di panico sono andato su Amazon e ho scritto, ho fatto una ricerca. Cioè, so che non è il posto di solito dove si va a cercare, ma ho cercato lì perché secondo me ci poteva dare delle emozioni. Ho cercato oggetti inutili e mi sono uscite delle cose bellissime, ragazzi. Su Amazon? Oggetti inutili? Su Amazon ho digitato oggetti inutili e, diciamo, ho fatto una mia lista di 3 cose bellissime che ho trovato, che in realtà non sono inutili, sono bellissime, cioè sono delle invenzioni geniali. Il primo è un album da colorare che si chiama Animali che fanno la cacca. Un libro da colorare, divertente per adulti, cioè una cosa per adulti, cioè tu è geniale, ma perché no? Cioè tu ti metti lì tranquillo con i tuoi pennarellini e mi colori un po' la vita. Ma che fanno la cacca espressamente? Sì, fanno espressamente, sono in posizioni, poi metteremo come sempre sui nostri social, Instagram, eccetera eccetera, tutte le foto del caso, ma questo secondo me è il terzo sul podio, diciamo. Al secondo posto di questa grande classifica troviamo una bellissima coperta a forma di burrito e colorata proprio come un burrito. Ma no. C'è una coperta tonda, ditemi che non è geniale sta invenzione. Cioè tu sei lì a casa la sera, guardi un film, a un certo punto, non so, hai freddo, prendi la tua coperta a forma di burrito e te la metti addosso. Cioè, certo, chiaro, sì, logico. Quanto costa di grazia questa 6,20 euro? No, aspetta, 6,23 euro? No, aspetta, una ventina di euro. Vai al primo posto perché sono in trepidante attesa di sapere qual è. Allora, il primo posto, ragazzi, è clamoroso, è il regalo della vita, se mai qualcuno volesse farmi un regalo mi regali questo: occhiali per leggere da sdraiati. No. Allora, c'è un occhiale praticamente che all'interno ha una specie di triangolo con uno specchietto che fa rimbalzare l'immagine dritta nei tuoi occhi. Tu puoi stare sdraiato e tenere sulla pancia il libro. Ma che cioè, cosa capisci? Serve? Cioè, io smetto di alzarmi, non posso, cioè posso, se voglio posso restare sul divano tutta la vita, è bellissimo. Sentite, allora, il punto è che Beppe in questo momento sta cercando di demistificare il nostro luogo comune. Il luogo comune di oggi, che non abbiamo ancora detto, è che non si inventa più niente. Beppe sta cercando di convincerci che in realtà ci sono sempre invenzioni nuove, ma secondo me queste sono tutte delle riedizioni di cose già pensate, già viste, un assemblamento di idee già esistenti. Sì, c'è da dire che l'occhiale, se vi ricordate, c'era già sulle riviste italiane. Vi ricordate quando c'erano quegli occhiali a spirale che permettevano di vedere attraverso i vestiti? C'è stato un periodo storico. Che erano totalmente delle trovate fake e non eri neanche né soddisfatto né rimborsato. Cioè io poi lo compravo perché volevo guardare attraverso i vestiti e poi invece non capitava niente. Ma tu, no, aspetta, Ale, tu hai veramente questi occhiali? No, ma probabilmente non lo so, non me lo ricordo, ma mi sarei detto, entrando in edicola avrei detto, caspita, io li prendo. Ad esempio mi è capitato una volta, con una pubblicità per una pallina giocattolo, e questa pallina nello spot televisivo rotolava attorno alla faccia dei bambini, che ovviamente erano felici di giocare con questa certo. bellissima pallina. Allora io l'ho presa espressamente perché sapevo che questa pallina, se posizionata sul mio cranio, avrebbe fatto il giro del ma cosa, ma perché, per quale motivo? Sì, non credo di aver avuto 6, 7, 8 anni. Vado nel negozio, anche nella cartoleria che vendeva questa pallina, l'ho presa, me la sono messa, attaccata alla faccia ed è caduta. E lì ho imparato, come dire, il senso della pubblicità. Esatto. No? Comunque, Oscar Wilde, per tornare un po' a questioni un po' più alte, a fine 800 diceva: non inventare assolutamente niente è un atto di genio puro, e in un'epoca commerciale come la nostra indica un considerevole coraggio fisico. Quindi mi sembra che non possiamo noi smentire Oscar Wilde. Mi sento di dargli ragione. Tra l'altro, chiacchierando di questo luogo comune nei giorni scorsi, ci è venuto in mente Tiger. Adesso ci arriverà una querela dalla catena di negozi oggettistica famosissima, però effettivamente il Tiger è il luogo per eccellenza di come cose che vediamo ogni giorno possono essere riproposte in un'altra formula e poi spingerci a, come dire, a comprare, a direi invece euro. Che 90 sfumature di grigio, come diavolo si chiamava, 450 sfumature di block notes sostanzialmente, perché ecco, bravo, sono capaci di reinventare un semplice agglomerato di carta in 450 miliardi di modi, miliardi. Beh, di però modi. scusami, sono bellissimi, cioè il quaderno che uso per voi, cioè per voi, per noi quando vengo alla radio, è quello della tavola periodica, perché dentro c'è l'elemento radio. Ma che cucciolo. Cioè, capisci che motivo di vita che mi hanno dato? Cioè, ti danno un modo per vivere la vita meglio. Vedi che però si ricollega a quanto ho detto all'inizio, cioè che alla fine non ci sono nuove idee, è solo un riproporre cose che vediamo già, che so, da 20.000 anni. Tranne, scusami, gli occhiali per leggere da sdraiato, quelli quello me li devi concedere. Quelli sono effettivamente devastanti. E a proposito di nuove idee, siccome il luogo comune è che le note sono 7, andiamo a sentire di cosa parliamo oggi. Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Uomo dalla barba bianca, quello che ci manca è scritto nel vento, lo cantano i cigni. Allora, Alessandro Mannucci, il nostro ospite, autore televisivo, conduttore anche di un programma per Dimax Turisti e pubblicitario. Alessandro, ciao, benvenuto a Off Topic. Ciao, grazie mille, sono molto felice di questo invito, è la mia prima uscita pubblica da quando ho compiuto 45 anni. Cioè, da ieri? Ieri, compio gli anni il primo maggio e quindi oggi è il 2 maggio, quindi grazie mille per avermi fatto questo regalo, sono molto contento e grazie mille soprattutto per avermi introdotto sulle leggendarie note dei cigni di Balaka e Will You Be There. Voi esatto. Pensavate forse che non mi fossi ravvisato di questa cosa, ma Michael Jackson è probabilmente l'artista che a livello di vita privata amo di più per una serie di assurdità senza senso e anche controversie che lo hanno caratterizzato, non ultima la sua fantastica musica, che però suona un po' derivativa qua, giusto? Non voglio esatto, esatto. Infatti adesso spieghiamo il perché abbiamo scelto Will You Be There, però intanto così al brucio, come si dice, Albano o Michael Jackson, da che parte stai? Guarda, io sto dalla parte di Michael Jackson, se non altro per il fatto che, come dire, io avevo già una certa età nel 92, purtroppo non mi vergogno di dirlo, e quando è uscita lo scandalo del plagio, io ho pensato che veramente fosse improbabile che Michael Jackson avesse davvero conosciuto Albano, anche se ascoltando i brani, sono praticamente identici. Sono identici. Facciamo un piccolo recap per i nostri ascoltatori. Le canzoni avevano 37 note di seguito identiche nel ritornello. E per sono un po' tantine, 37. Un po' tantine. Per comprovare questa cosa, nella prima udienza avevano chiamato Ennio Morricone per decretare il plagio o meno. La cosa che in pochi sanno, probabilmente, qui ricorriamo a Wikipedia, che forse è una delle poche ultime invenzioni reali nel nostro periodo storico. La cosa che pochi sanno è che la citazione per plagio fu cancellata, perché entrambe le canzoni risalivano a una canzone del 39, Bless You for Being an Angel, degli Ink Spots. Bless you for being an angel. just when it seemed that heaven was not for me. Che si erano poi a loro volta ispirati a una canzone dei Nativi d'America, quindi in realtà Albano, da quanto dice Wikipedia, va in giro a dire che ha vinto una causa contro Michael Jackson, in realtà non è vero, perché anche questa fu annullata in, ma sede, scusa, Ricky, in sede civile. Ma una delle ultime invenzioni è Shazam, mi viene da dire, se parte uno dei due pezzi, sì. Shazam cosa fa? Esatto. È una bellissima domanda, posso dire. Io aggiungo anche questa cosa qui che mi ricordo bene, perché eravamo davanti alla TV tutti quanti, no? Allora non c'erano i social, quindi la TV era un grandissimo catalizzatore di esseri viventi. La sera ti mettevi lì e poi c'era, non so, Telemike, ma prima c'era il telegiornale. Al telegiornale vedere Michael Jackson, cioè nella sua tenuta da in parte Beatles durante il periodo Sgt. Pepper e in parte dittatore cubano, sì, nordcoreano, esatto, che sì. Va in giro con un codazzo di bodyguard di colore, entrare in un'aula del Palazzo di Giustizia di Roma, era stata veramente una grande emozione. Mi ricordo che oltretutto chiamava Albano maestro, io lo rispetto, beh, c'è certo. Un sacco di foto con loro. Mi ricordo che Albano chiese vari miliardi di risarcimento per il plagio, esatto, 4 miliardi, ma in realtà credo che si misero d'accordo e Jackson gli diede 3 milioni di lire, una cosa che ti comprava, cioè non si è comprato una Panda, penso, per la mancetta, per la mancetta, esatto. Senti Alessandro, tu che fai di professione pubblicitario e anche l'autore televisivo, hai mai plagiato, ti è mai venuto in mente di dire cazzo, questa era proprio una bella idea, dovevo avercela io? Credo ogni giorno, 70 volte al giorno, credo che sia normale. No, ma la cosa triste è quando ti viene una bella idea, poi ovviamente il mio test numero uno quando ti viene quella che per te è una bella idea, innanzitutto bisogna assicurarsi di essere sobri, non sotto effetto di droghe, quindi spesso volentieri, quindi innanzitutto voglio dire, sono sobrio. Spesso volentieri, scusami, non lo sei, stai per dire? Allora, no, nel senso, droghe ho chiuso da tanti anni, però diciamo che... Ma come? Devo continuare, ho 45 anni, sì. ho smesso per un po'. Però invece l'alcol, soprattutto la sera. Quindi ne parlo con mia moglie dice, sì, non è male, mia moglie è una persona molto critica nei miei confronti soprattutto, quindi se dice non è male vuol dire che deve essere un capolavoro sicuramente. Poi cerco, vedo delle cose, quando vedo che qualcuno ha fatto qualcosa di simile, analogo, meglio, ovviamente mi viene una certa idea e scopro che, che ne so, l'ha già fatta non so, un famoso attore o conduttore americano, è una cosa un po', mi deprime, diciamo, però è un processo inevitabile, perché è arrivata una mail, non so se avete sentito. A questo punto leggila però in diretta. Allora, sì, sarà, tanto sarà un bonifico. Sì, certo. Sicuro. A quest'ora, sì, certo. Certo. Allora, aspetta, Amazon Music. Lo sapevi? Ascolta musica ovunque, in qualunque momento. Segui testi. Alexa in versione mobile. Ah, perché sì, perché io sono abbonato ad Amazon Prime e stanno cercando di farmi ascoltare anche la musica. Ma io veramente sto bene così. Io penso che se voi guardate i film degli anni 50 o 60 o anche la produzione letteraria, no? Nel 2020 la gente va in giro sulle macchine volanti, c'è una colonia su Marte, c'è il teletrasporto, cioè nella produzione letteraria e di fiction degli anni 60, gli anni che stiamo vivendo sono anni veramente tipo il ritorno dello Jedi, capito? Sì. Viaggi interstellari, la gente fa da mangiare, cioè perché? Perché quegli anni là erano, cioè negli anni 60 si pensava al futuro, era un periodo di boom e quindi si pensava al futuro come a una nuova epoca da colonizzare, ma non si teneva conto del fatto che il passato sarebbe stato oggetto di rivalutazione e sarebbe stata una miniera gigante a cui attingere. Il fatto che ci siano i social, il fatto che praticamente adesso le informazioni siano condivisibili da chiunque, sto diventando noioso, ditemi se volete, faccio un peto così per cambiare, no, il fatto che adesso praticamente qualunque informazione, io mi ricordo, io sono un grande appassionato di musica, mi ricordo che a 13 anni, a parte che avevo tipo 4.000 lire in tasca, quindi era difficile comprarci qualunque cosa, però io conoscevo uno in terza, è arrivata un'altra mail, Chicco, okay. Chicco, buon compleanno Alessandro, ecco un regalo per te. La cosa triste, ecco, vedete, è che delle 100 mail mi arrivano, sono tutti annunci la maggior parte. È una cosa tristissima. È chiaro. È una cosa sei un pubblicitario, per forza, ti arriverà sì, la esatto. pubblicità. No, perché per mia sì, non ti puoi lamentare tu, cioè con tutta la pubblicità che hai venduto agli italiani negli ultimi 20 anni, direi che hai ragione. Cioè, giusto pagamento. C'è gente che ha fatto molto peggio, comunque, sono un povero disgraziato, ricordiamo che poi la gente pensa che sia un tycoon, invece sono proprio un disgraziato. E comunque, insomma, io conoscevo uno in quarta e in terza media che aveva uno zio che gli aveva registrato una cassetta con i Black Sabbath e io li conoscevo e la maggior parte dei miei amici no, perché i mezzi ai quali si rivolgeva per ascoltare musica erano la radio e la TV e davano praticamente Ivana Spagna e Life is Life dei Via Verdi. Life is Life, quella roba lì. Quindi io c'avevo i Black Sabbath ed ero depositario del sapere. Quando sono andato in un negozio di dischi, ho scartabellato, ho trovato delle cose strane, le ho comprate ed erano solo mie. Adesso io dico una cosa: vai su YouTube, scarichi il pezzo, c'è Spotify, tutti conoscono tutti. E cosa succede? Che c'è un surplus di produzione e di informazioni digitali, foto, film, di cui non sappiamo cosa farci e di cui, pur avendone traccia fisica, perché grazie a internet troviamo tutto, non riusciamo a trattenerla nella memoria. Ma non è che forse, la metto come provocazione, non è che forse quando si inventa qualcosa di nuovo, certe volte non è ancora pronto il contesto in cui viene inventata questa cosa ad accettare questa nuova invenzione? Perché noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci dei contributi se mai avessero inventato qualcosa nella loro vita e un nostro ascoltatore Luca ci ha mandato un contributo. Per un compito a casa in quinta elementare nostra maestra ci aveva assegnato di scrivere un tema e fare un disegno su un'invenzione a nostra scelta. Io ho passato tutto il pomeriggio a pensare e poi ho avuto la brillante idea di inventare e disegnare una bellissima motoslitta a gas, ma liquido. Portato il compito a scuola, la maestra mi chiede, dopo averlo letto, mi chiede: ma scusa, ma com'è possibile che un gas sia anche liquido? E mi ha dato un misero voto, appena sufficiente, e comunque poi mi sono messo a piangere come un poppante. È finita male la storia, c'è un risvolto amaro. Io pensavo che alla fine ci fosse qualcosa di divertente. Così impari a fare quello che si crede un posto cazzo per il nostro ascoltatore, vero? Perché la motoslitta a gas liquido, giustamente la maestra dice: ascolta zio, stai al tuo posto per favore. Sì, però la professoressa in quel caso ha preso proprio un buco nell'acqua. Cioè, voglio dire, certo, sottovalutazione certo, infatti, assoluta di un genio in classe che aveva già predetto, come dire, il GPL. È vero, il sistema, diciamo, il cosiddetto sistema, la generazione dei come dire, superiore a lui gli dice: no, stai dicendo una baggianata. Tu pensi che la creatività sia legata a una fase della vita, cioè da adolescente, da giovane sei più creativo piuttosto che a sessantenne? Allora, io penso di no, ma banalmente perché, come dire... Cioè, voglio dire, le idee buone tu ce le hai avute a 15 anni, a 20 o adesso? È difficile dirlo perché forse non dovrei parlare di idee buone io. Diciamo che da 20 anni a questa parte riesco a viverci e anche recentemente a mantenerci una famiglia, quindi forse non sono così male. Però quello che avete detto voi è giusto, nel senso che... oggi è anche molto difficile riuscire a imporre un'idea nuova e radicale proprio perché non ha delle radici a cui aggrapparsi e la gente la percepisce come totalmente aliena. Allora il trucco per chi fa il tuo lavoro, che tu fai anche pubblicità, quindi devi vendere, cioè non è che fai creatività per la ricerca dell'arte no. o della verità no, o della no, purezza, esatto. Ma giustamente, senza dare accezioni negative, lo fai per vendere. Quindi qual è il trucco? Il trucco è, secondo me, se ne esiste uno, perché sto provando a rispondere a una domanda, non lo so, il trucco è quello di proporre un contenuto che sia godibile visivamente, che sia una storia. Io penso che le storie, anche piccole, di 20 secondi, 30 secondi, funzionino sempre perché raccontano qualcosa e la narrativa e la storia è qualcosa di cui la gente ha sempre bisogno e sottesa fra le righe ci sia una, come dire, un suggerimento all'acquisto che però deve essere, i cui collegamenti li deve fare lo spettatore, capito? Cioè, nel senso, deve esserci un takeaway value per lo spettatore quando guarda uno spot, le telepromozioni. io ho fatto tante delle promozioni che sono praticamente degli spot lunghi da 60 secondi dove parli tanto del prodotto. Io non ho mai amato quelli in cui si dice ed eccoci qui, questo è il nuovo spazzolone d'accesso, costa solo 2,90 euro e lo trovi anche nei seguenti colori verde. Io passavo le ore sulle televisioni regionali che vendevano. Stai scherzando? Mi hanno formato. Si vede Alessandro, effettivamente. Sì, esatto. mi hanno formato anche a me quelle cose lì, soprattutto le televendite di quadri e di opere d'arte. Su telemarket ho già regalato un 5 minuti qua off topic. Sì, Manucci, secondo me, oltre a un periodo storico della propria vita, della propria esistenza, in cui forse si è più creativi, c'è anche una famosa modo di dire che è di necessità virtù, ovvero MacGyver 1990, quindi quando sei in difficoltà in qualche modo ti ingegni per inventarti qualcosa, certo. Forse è quell'altra la situazione. E infatti su questo abbiamo chiesto un contributo alla nostra amica Chiara Montanari, che è una Alessandro, dammi una mano tu, è una ricercatrice in Antartide. Sì, esatto, è stata capo spedizione al Polo Sud per credo 5-6 volte, insomma è un'esperta del Polo Sud, ha condotto missioni nelle zone più difficili del pianeta. Perché ci siamo immaginati che essendo di fronte a una landa desolata di ghiaccio, qualcosa bisogna pure inventarsi per sopravvivere. Sentiamo cosa ci ha detto. Sì, sai, in Antartide facciamo con quello che abbiamo sul posto, quindi dobbiamo inventare. Per esempio, il cuoco di Concordia ha inventato la camera di raffreddamento rapido. Se devi fare la torta alla crema e hai bisogno di raffreddare la crema, la metti 30 secondi a meno 50 sul davanzale e poi è pronta per essere messa dentro la pasta. Oppure un'altra volta io ho inventato la toilette portatile perché dovevamo andare alla costa con questi container su slitta trainati da trattori cingolati e non avevamo quello che di solito abbiamo, cioè i mezzi moduli abitativi, e quindi ho inventato il bagno portatile, la toilette portatile, che nel mio caso era un vasetto di yogurt formato famiglia. E un'altra volta abbiamo inventato a Natale l'albero di Natale di ghiaccio e poi naturalmente è finito nei nostri cocktail. Beppe, io sul vasetto di yogurt diciamo che sono rimasto leggermente basito, però effettivamente è reinventare un oggetto di uso quotidiano per un altro scopo e utilizzo, mettiamola così. Sì, ottimo, però io ho preferito il cocktail, cioè scusatemi ma sì. Cioè, il ghiaccio per i cocktail per me è clamoroso. Stavo pensando, scusate, che il vasetto per le urine diciamo serve anche per scaldare le mani, poi a un certo punto una volta che l'hai fatta tieni le mani. Che bello, quindi ha inventato due cose in realtà questa straordinaria ricercatrice. Esatto. Ha inventato anche uno scaldamani e un portapiscio, esatto, no, due in uno. A me piacerebbe tanto un gelato che ha una resistenza allo scioglimento molto alta, non l'hanno ancora inventato. Senti Alessandro, siccome vogliamo darti un exit strategy, hai compiuto appena adesso 45 anni, giusto? Sì. A un certo punto della propria esistenza la gente smatta e dice mollo tutto e mi reinvento. Stiamo parlando di invenzione. Abbiamo digitato su Google il tuo nome e abbiamo scoperto che tu hai degli omonimi che fanno altre professioni completamente diverse. Quindi noi ti diciamo cosa potresti essere e ci dici cosa ti piacerebbe tra queste opzioni. Allora, assolutamente. Uno, esiste un fisioterapista, Alessandro Mannucci. Uno, ciclista e podista, Alessandro Mannucci ciclista e podista. E terzo, un avvocato specializzato in diritto penale di cui abbiamo anche il cellulare, quindi in caso lo potremo chiamare. Cosa preferisci? Sono questi tre. Beh, la risposta è facilissima. Allora, dunque, io odio lo sport, nel senso, ammiro che lo pratica, non ho mai fatto niente, se mi vedeste capireste. Uh-huh. Quindi escluderei assolutamente il ciclista e il podista, che poi è uno sport anche di sacrificio, orrendo, non diventi neanche ricco, quindi no. Poi l'avvocato richiede delle competenze specifiche e anche probabilmente degli appoggi non indifferenti che non ho. Mi rimane il fisioterapista, che richiede anche lui, per carità, una serie di competenze specifiche. Esatto. Devo mettere le mani addosso alla gente e ad alcuni avrei anche molta voglia, però se mi pagano anche, tutto sommato non mi sembra male. Esatto. Ok, allora ti abbiamo dato un exit strategy l'ospite per i tuoi di programmi 50. Telefono, grazie per i miei 50, adesso ci penso. Allora, grazie mille Alessandro di essere stato con noi, grazie, si inventa più niente, abbiamo capito che forse è vero, alla fine ricombiniamo soltanto idee già masticate da qualcun altro. Ricordiamo i nostri contatti se ci volete scrivere. Alessandro, a te il momento marchetta. Ma allora, intanto potete riascoltare e ascoltare tutte le nostre puntate sulle principali piattaforme podcast, quindi ci trovate su iTunes, su Google Podcast e su Spotify. Dopodiché c'è Instagram, ci trovate a offtopic24, scriveteci lì, seguiteci, condividete, fate quello che vi pare. Poi abbiamo aperto un nuovo canale su Twitch dove facciamo delle dirette live, dove ci potete ovviamente vedere e anche lì potete interagire, altrimenti potete mandarci un WhatsApp audio al 340 8303 758. C'è Facebook offtopic-radio24 e anche Telegram, il nostro gruppo di discussione si chiama offtopic-radio24. Anche perché bisogna tenersi stretti i social, visto che in questo momento storico stiamo conducendo ognuno da casa propria, e quindi almeno ci riusciamo a vedere in altro, esatto, modo che non sia quello, esatto, in voce. Volevo solo dirvi, ragazzi, che vi dovete ricordare che l'artista mediocre copia, il genio ruba. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.